Io vorrei una battuta veloce da entrambi i nostri ospiti perché vorrei capire se questi ultimi mesi, direi ultimi anni di profonda crisi, se hanno acuito quello che era già un po' un problema dei nostri condomini, perché insomma c'è parecchia animosità tra chi abita uno stesso palazzo. Allora volevo una battuta prima per galanteria dalla dottoressa Edoardi e poi dal dottor Correale. Dottoressa Edoardi. Sì, sicuramente già il vivere civile è comunque difficile, quindi la coabitazione sappiamo presenta grandi problemi e oggi le difficoltà economiche hanno sicuramente reso ancora più complicato questo. Dottor Correale, dai vostri dati. Il condominio è anticiclico, non è il luogo della produzione, è il luogo dove necessariamente si gestiscono le parti comuni. Noi abbiamo quindi dei dati che sono in decremento di tutto quello che comporta spese e quindi anche delle controversie. Mentre invece accade che quando la controversia si instauri si radica molto. Non abbiamo un grande aumento di morosità, ma quelle morosità che residuano sono molto cattive e addirittura si arriva a pignoramento perché ormai accade che chi non paga effettivamente non ha quattrini. Una volta poteva essere più una questione di disordine, di preferenza di una spesa rispetto a un'altra, oggi accade che la Certo. morosità sia radicale e arrivi fino alle estreme conseguenze.